No, non era apparato, no. Era un coso di un telecomando. Chi non si acciappa sul telecomando. No, no, non va bene, neanche l'anniversario va bene. Ci ho provato a cercarlo in internet, preciso. Ma dove qua non si acciappa. Neanche quello l'equivalente. Hai detto che manca era. Mi sa che è un telefunke. No, non sei uscito. No, fra, sei tutto distorto, stai uscendo. Anche tu vai intenditi. E non ti capivo, Non è che ti qua vita mia che mi chiede. E te che dato, ha sariato me. Ciao Luca. Buonasera, Buonasera a tutti, ciao dottore. Attenzione, prendo gli indiguami da mia che per... Che bello. Ciao fratello, che bello, mi da mia che Luca, ma lo sai che sei riuscito a punire la voce sul computer portatile? Dottore. Sì, ma mi ascolti? Che faccio di uno Smith? Due... Andiamo a vedere. Sono riuscito a mettermelo a posto. Oh, e cosa era? Sono soffiato, sono sceso giù, ho attaccato un compressore, ho fatto un compressore. Ah, vuol dire non era pulita la ventola. No, infatti. Mi sono accorto quando mi è uscito una vampada di biuvaro. Praticamente va in protezione, non respira. E come se te ti bollino questi tutti in bocca. Non respiri, vado su sedi, c'è un computer. Deve anche, vabbè, di cambiare anche la pasta di raffreddamento al chip, altrimenti si punta a capo, perché si riscalda. Ah, adesso è tutto tranquillo, mi vira via un paio d'ore, vira via trattenilo. E quindi adesso è a posto. E vuol dire che ogni andante le do una cifarata gru cicca cicca. No, bisogna smontarlo, questa cicca cicca, bisogna smontarlo e pulirlo. Beh, lubrificare la ventola soprattutto, con il CRC. Dai, che io adesso sono andato a salutare che tanto vado a prendermi il tram. Riprendi tu Franco, ciao Otto. Ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Avanti Fra. Ehi Fra, va passaggio. Quasi anche tu non vedi e ci sei. Anch'io sono uscito un antennino. Ma dove sei? Al monte. Arrivi benissimo Fra, bella radio. Vabbè, se avevo chiamato là. E quanto? Molto, perché lo stai vendendo. Ah, io non te li spenderò. Vabbè, se lo procurerà. Vabbè, dai. Sentiamo Fra, sono per del tram. A dopo magari, ciao. Ah, di cui si vuole un mobicom, 70 euro. E il mobicom, vedi, quello potrebbe andare, 80 euro glielo puoi dare. E si arrangia, il mobicom funziona benissimo, perfetto, lasciamo per poco, se lo vuole. No, ma lui stava cercando, no, il mobicom, lui vuole una radio che c'ha dialecco, tutta questa roba. E cazzo, va bene, dai, Fra, ci sentiamo. David, se lui vuole spendersi da 200 euro glielo dico. Vabbè Fra, ci risentiamo alle prossime che mi stanno chiamando. Ci risentiamo domani se tutto andrà bene. Andrà bene. Ciao Fra, buona carica e tutto quanto. Alle prossime. Ciao Tore, buona carica, buon tutto e ce l'hai ascolta alle prossime, anche io chiudo e vado a cenare. Saluto anche gli amici che sono in ascolto e per me QRT. Ebbene! Non ve nessuno in occhi!